Focus Economia con Deborah Rosciani. Sono le 17.06 e 45, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia. Allora, qua dobbiamo contraddire un po' quella regola che ci siamo dati quando ci alterniamo alle conduzioni. Di solito gli ascoltatori ritengono che io porto un po' di fortuna ai mercati, che invece Sebastiano Barisoni è un po' più gufetto. Oggi questa alternanza si smentisce perché per Milano in questo momento abbiamo un bel meno 4% secco, meno 4,15%, sul FTSE MIB molto male anche le altre piazze europee, ma Milano davvero è di gran lunga la peggiore, per cui questo anno che era iniziato un po' così e così, venerdì 2 gennaio sui mercati finanziari internazionali, oggi invece ha un tenore ben chiaro ed è un tenore negativo. Che cosa succede sui mercati finanziari? Ne parleremo chiaramente diffusamente in tutta questa prima ora di Focus Economia. Sta pesando la Grecia, stanno pesando le dichiarazioni poi parzialmente ritrattate della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha detto di non guardare con un atteggiamento tanto drammatico una possibile uscita della Grecia dall'area euro. C'è il prezzo del petrolio che continua a scendere, naturalmente tutto questo fermento porta anche i suoi effetti sul mercato valutario, e oggi l'euro sul dollaro è sceso ai minimi da 9 anni a questa parte. Cercheremo di capire un po', dando delle chiavi di lettura a queste dinamiche che si sono manifestate appunto in questa prima giornata della settimana, cercheremo di capire cosa c'è dietro a questa giornata di passione in borsa. È anche abbastanza probabile, poi cercheremo anche di capirlo se sono d'accordo i nostri ospiti, che questo andamento un po' sul lotto volante lo vedremo fino a quando non ci saranno le elezioni greche il 25 gennaio, peraltro proprio 3 giorni dopo l'attesissima riunione della Banca Centrale Europea, in cui verrà varato il 22 gennaio per l'appunto, almeno nei dettagli tecnici, il quantitative easing, questo piano di stimolo monetario che vorrebbe portare ad una iniezione nuova di liquidità sui mercati finanziari attraverso operazioni di acquisto di titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Anche Bruxelles oggi ha detto la sua sui rumors tedeschi, secondo cui appunto la cancelliera Merkel considera ipotizzabile l'uscita, l'abbandono dell'euro da parte della Grecia. Bruxelles ha fatto capire che lo scenario di una rimessa in discussione dell'appartenenza all'euro semplicemente non deve neanche essere previsto. Irrevocabile, ha detto, l'adesione all'euro è irrevocabile, è stato utilizzato proprio questo termine dalla Commissione Europea per evitare, ha riportato appunto, che si ricarichi la tensione su un'eventuale uscita della Grecia dall'Unione Monetaria. Un abbandono giuridicamente impossibile, una volta fissato in maniera irrevocabile il tasso al quale l'euro è subentrato alla moneta di uno Stato membro, in questo caso la dracma. E questi sono un po' i temi principali. Poi altri argomenti che affronteremo una volta che avremo fatto appunto questa, dopo l'ubriacatura dei mercati di questa giornata. Naturalmente toccheremo anche in parte la grande polemica politica degli ultimi 2 giorni, la questione della depenalizzazione dei reati tributari, l'inciucio, così è stato ribattezzato, che avrebbe portato l'esecutivo Renzi alla vigilia di Natale a varare nella delega fiscale il provvedimento che esclude la punibilità per un certo tipo di reato, una misura subito cancellata. Il governo se ne è assunto subito la responsabilità, ma potete immaginare, l'avete seguita questa vicenda nelle ultime ore, che bagarre ha provocato. Noi oggi abbiamo intervistato anche il sottosegretario all'economia Zanetti, sentiremo che cosa ci ha detto. I consumi delle famiglie italiane, abbiamo già dei primi rapporti dopo le festività natalizie, che peraltro ancora non sono ancora ufficialmente concluse perché abbiamo l'Epifania domani. C'è buio pesto sulle vendite natalizie nella grande distribuzione, lo dice la Coop, che ha rielaborato dati Nielsen. Il rapporto è stato diffuso oggi, si parla di una riduzione degli acquisti che in dicembre ha superato i 2 punti percentuali, ma so che possono apparire cifre contenute, quando si parla invece di consumi 2 punti percentuali sono un'enormità, come ci raccontano spesso gli esperti. È boom dell'e-commerce che ha una crescita nella stagione natalizia, anche questo è un dato che abbiamo commentato più volte, che è stimabile di quasi il 30%, ma non basta naturalmente questo a compensare il calo delle vendite tradizionali. tradizionali. Parleremo appunto proprio con un rappresentante COP di questo rapporto. Gli italiani tengono ancora la cinghia stretta, ma un pochino, dice anche la COP, questa cinghia inizia ad allentarsi. Vedremo dove viene visto questo, questo lumicino in fondo al tunnel. E però insomma il tema è molto interessante. Un altro tema poi di cui parleremo verso la fine della trasmissione, ci collegheremo con il nostro Enrico Pagliarini che è a Las Vegas, beato lui, però è là per lavoro, perché si apre domani il salone dedicato all'elettronica di consumo, ai telefonini, ai computer, il CES, una iniziativa che dura fino al 9 gennaio. Pensate che lo scorso anno i visitatori di questa manifestazione sono stati più di 160.000, sono 3.500 espositori, c'è tutto ciò che è all'avanguardia per quello che riguarda la tecnologia, ci sono gli smartphone pieghevoli, le TV a punti quantici, non ho idea di che cosa siano, poi Enrico Pagliarini ce lo spiegherà. Insomma, ci collegheremo anche noi con Las Vegas per capire dove sta andando la tecnologia, dove ci sta portando. Abbiamo tanti temi dunque anche oggi da commentare. 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS se volete tenerci compagnia. Adesso rapidamente le notizie in breve. Abbiamo subito le materie prime, perché naturalmente anche oggi queste hanno catalizzato l'attenzione degli operatori. Intanto l'oro stamattina in Asia era in leggero rialzo a $1,197 l'oncia, quasi 1,198. Il petrolio invece ancora in calo, oggi a New York a $50,77 al barile, un calo di quasi 4 punti percentuali. Il Brent del Mare del Nord è sceso sotto la soglia dei $55 al barile, toccando i minimi degli ultimi 5 anni. Fermentissimo direi sui mercati valutari, con l'euro, come vi anticipavo prima, che è sceso sotto 1,19 rispetto al dollaro per poi risalire, adesso siamo a 1,1931, abbiamo toccato il minimo dal 2006, in calo anche sullo yen a 143,16 ai minimi da inizio novembre. Ribadisco un po' le notizie che riguardano la Grecia, che commenteremo tra poco. Secondo i trattati europei l'appartenenza alla zona euro è irrevocabile, l'euro c'è per restare e crescere ed ha provato la sua resilienza, così oggi un portavoce della Commissione europea dopo le indiscrezioni dello Spiegel e le dichiarazioni di Angela Merkel. Non commentiamo queste indiscrezioni, la posizione della Commissione europea resta quella espressa dal commissario Moscovici a fine dicembre, l'unica dichiarazione che veramente vale è quella degli elettori greci il 25 gennaio. Anche il governo tedesco oggi ha ricorretto un po' il tiro rispetto alle indiscrezioni dell'altro giorno. Il governo tedesco e i suoi partner lavorano per rafforzare l'eurozona nel suo insieme per tutti i suoi membri, Grecia inclusa, l'ha detto appunto il portavoce del governo tedesco, chiarendo l'atteggiamento dell'esecutivo sull'opzione Grexit. Per fare questo bisogna andare avanti sulla strada seguita fino ad ora e sulle riforme. Intanto oggi anche il presidente francese Hollande alla radio francese ha commentato un po' queste dichiarazioni, questa ridda di dichiarazioni degli ultimi giorni, ha detto anche che incontrerà domenica prossima Angela Merkel per parlare del futuro dell'Europa. E peraltro, a proposito di Germania, oggi dalla Germania stessa abbiamo avuto un dato molto importante, perché è anche uno dei tanti dati a cui guarderà Mario Draghi per decidere in che misura effettuare il suo quantitative easing. Parliamo dell'inflazione di dicembre che ha rallentato ancora, è stata pari allo 0,1% più 0,1% contro il più 0,5% di novembre. Il dato è ai minimi dall'ottobre del 2009 e sotto le attese degli analisti che la indicavano a più 0,2%. Notizie veloci dall'Italia, lo spread fra BTP e Bund tedesco oggi è risalito leggermente a 125,1 punti base rispetto alla chiusura appunto di venerdì, abbiamo toccato i 124, il tasso sul titolo decennale del tesoro si è attestato poco al di sopra del minimo storico dell'1,73% segnato venerdì, oggi siamo a 1,74. Sempre a proposito dell'Italia, migliora nel 2014 il consuntivo delle riscossioni di Equitalia, non so sappiamo se questa sia esattamente una buona notizia, lo è certamente per il fisco, ma insomma gli italiani non hanno davvero tregua. Lo scorso anno sono ammontate a quasi 7 miliardi e mezzo di euro queste riscossioni, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Vi dicevo del rapporto COP: se nel 2014 la ripresa non c'è stata, il 2015 sarà, se non altro, quello della luce in fondo al tunnel. Le famiglie italiane allenteranno, seppur di poco, la cinghia, state già commentando in parecchi questa espressione, e i consumi, che già nel 2014 hanno smesso di cadere, mostreranno segno positivo, un più 0,7% di crescita. Il rapporto COP consumi e distribuzione indica questo. In fondo però la classifica dei consumi degli italiani restano i carburanti, che sono ancora in contrazione, abbigliamento, l'abbiamo visto in questi giorni con i saldi, e alimentare. Tra l'altro la COP indica anche che la spesa degli italiani per il cibo fra il 2006 e il 2014 è arretrata di ben il 12%. Nell'alimentare i consumi in termini reali risulterebbero nel 2016 ancora inferiori di quasi 20 miliardi rispetto ai livelli di 10 anni prima, mentre sull'abbigliamento peserebbero 8 miliardi di minori consumi. Se a Capodanno non si bada a spese, i più accorti preferiscono l'Epifania. Questo in sintesi il trend emergente nei primi giorni di quest'anno. Ci sono delle analisi riportate dal portale casevacanza.it. Il 22% dei vacanzieri italiani ha scelto la settimana in cui cade la Befana per partire, visto che ovviamente il risparmio medio rispetto ai giorni di Natale e Capodanno arriva quasi il 30%. Non cambiano però le località già prenotate, che restano quelle montane, vere regine dell'inverno, anche grazie al clima più rigido degli ultimi giorni. Ma dove andranno gli italiani per l'Epifania? Le mete scelte per trascorrere queste giornate sono, all'insegna della tradizione ma con un occhio attento al portafoglio, bandite le mete del turismo del lusso. Ci sono tra le più gettonate le località montane più accessibili. Reggono anche le città d'arte, per le quali i flussi turistici non conoscono bassa stagione. In ogni caso, sul podio delle destinazioni più ambite troviamo Livigno, Roma e Canazei. Torniamo adesso sulle vicende che seguite voi con grande divertimento e a volte anche con un po' di frustrazione, le vicende di assenteismo, perché non c'è stata solo Roma con i vigili urbani di Capodanno. Sentite cosa è successo a Bari, dove il sindaco Antonio De Caro si è infuriato letteralmente con i dipendenti dell'AMTAB, l'azienda di trasporto pubblico urbano del comune, che la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio ha registrato 109 assenze su 417 unità impiegate, quindi parliamo del 26%. Dopo aver ricevuto i dati sulle assenze delle municipalizzate a Capodanno, il primo cittadino si è rivolto ai dipendenti dell'azienda minacciando la privatizzazione e spiegando che il prossimo 31 dicembre, se dovessero ripetere quello che hanno già fatto, potrebbero trovarsi a dover discutere con il padrone piuttosto che con l'amministrazione comunale. Sentiamo il sindaco di Bari, Antonio De Caro, intervenuto ad Effetto Giorno al microfono di Simone Spezia. Si sono assentati in 109, alcuni per malattia, altri per permessi sindacali, qualcuno è andato a donare il sangue. Nei 109 non ho considerato nemmeno quelli che avevano, diciamo, utilizzato la legge 104. Questo a 10 giorni dalla ricapitalizzazione dell'azienda. Ho preso un impegno di versare all'azienda in consiglio comunale 6 milioni di euro, 2 milioni quest'anno, con i soldi di un'altra azienda comunale che ha avuto degli utili per fortuna. Sembrava non uno sgarbo al sindaco, all'amministrazione comunale, che 10 giorni prima, anche per tutelare il loro posto di lavoro e per rilanciare l'azienda, avevano votato in consiglio comunale. Sembrava più che altro uno schiaffo ai cittadini che poi mettono i soldi per la ricapitalizzazione, uno schiaffo invece ai colleghi che erano andati regolarmente a lavorare, lasciando a casa il calore familiare, il cotechino, come ho detto io. Mi sono sentito di dire a quelle persone che avevano utilizzato una finta malattia per non venire a lavorare, che la mia speranza era che il cotechino gli fosse andato di traverso, ecco perché poi c'è stata la polemica. Avete la certezza? Avete aperto un'inchiesta? Ho scritto all'azienda, ho chiesto di aprire un'inchiesta, incontro i sindacati, non quelli aziendali, ma incontro i sindacati confederali, perché ho detto se l'andazzo è questo io preferisco privatizzare, così l'anno prossimo parlano con il padrone, non con l'amministrazione comunale. Ieri mi sono presentato, ieri sera, da solo con la mia automobile personale in azienda per controllare se gli operatori dell'officina stavano lavorando, perché mi aspettavo anche qualche rappresaglia, tipo non far uscire gli autobus stamattina. Contemporaneamente voglio capire se devo procedere con la ricapitalizzazione dell'azienda, visto che i soldi non li ho ancora dati, o devo pensare a una privatizzazione. Io nella ricapitalizzazione ho chiesto all'azienda di darmi in cambio qualcosa, nel senso che 6 milioni li mette il comune, gli altri 4 milioni li devono recuperare efficientando i costi, riducendoli, aumentando i ricavi e contemporaneamente trasformando un servizio oggi inefficace in un servizio più efficiente. Se la prima risposta è stata quella nella notte tra il 31 e il 1 gennaio, è stata quella, e insomma, preferisco procedere con la seconda opzione, che è la privatizzazione. E sul tema degli sprechi, un tema che vi appassiona sempre molto, ma proprio perché ha dei connotati ovviamente di grande frustrazione per il nostro paese, sentiamo i 100 secondi di Radio 24 in collaborazione con RDS. Questa sera i 100 secondi portano la firma di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Vorrei parlarvi del primo appalto dell'anno per il bilancio dello Stato, quello per i rotoloni di carta del tipo che noi usiamo comunemente in cucina e chiamiamo in gergo gli Scottex. Il Ministero della Difesa li ha pagati 17 euro l'uno, pari a 34.000 euro nel complesso, come recita la Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio. Chiunque frequenti un supermercato sa bene che quel prodotto costa meno di 2 euro e anche le bobine professionali si aggirano intorno ai 10. Tutto sommato è poca cosa, ma se moltiplichiamo questo sistema poco oculato per circa 32.000 centri di acquisto delle amministrazioni pubbliche e per i circa 100.000 dipendenti pubblici che oggi hanno diritto di firma sugli ordini, capiamo bene perché non si riesca a far calare la montagna degli altri 140 miliardi di acquisti e beni, per beni e servizi che fa oggi la pubblica amministrazione. È una fetta consistente degli 800 miliardi di spesa pubblica annua complessiva ed è l'unica comprimibile di fatto, perché il resto è destinato a stipendi e pensioni. Una strada però c'è: centralizzare gli acquisti in modo che la famosa siringa possa costare uno a Bolzano e uno a Catania, senza svariare con margini di differenza anche del 100%. Una ricetta semplice che aumenta la possibilità di controllo e di efficienza. Per questo era stata creata dall'allora ministro Carlo Azeglio Ciampi la Consip, la piattaforma unica per gli acquisti della pubblica amministrazione. A fatica però, superando resistenze vischiose e tenaci, quell'istituzione è riuscita a centralizzare direttamente più o meno 14 miliardi di appalti. È ancora poco, visto che non appena si procede per quella strada i risparmi riscontrabili sono del 20% in media. Non credete anche voi che si potrebbe fare qualcosa di più? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ma sì, è meglio parlare di Grecia, di Germania e di tutti i temi di carattere finanziario internazionale. Lasciamo per un attimo le questioni italiane totalmente deprimenti, anche se per la verità oggi tra Grecia e Germania non so chi è che ci abbia messo lo zampino più forte per far andare in questa maniera la seduta sui mercati finanziari internazionali, ma mi focalizzerei in questo momento in particolar modo sull'Europa, perché anche Wall Street è negativa, ma dopo i record delle ultime settimane ci sta che un po' Wall Street freni, ci sta un po' meno questo meno 4,5 punti per Milano in questo istante. Allora, la Germania non ha cambiato idea sulla Grecia, avverte Atene di rispettare i patti anche se Tsipras dovesse vincere le elezioni. Berlino ha messo le cose in chiaro dopo le indiscrezioni secondo cui non sarebbe più preoccupata di una Grexit dall'euro, cioè di un'uscita della Grecia dall'Unione Monetaria. Il governo tedesco si aspetta comunque che la Grecia rispetti i piani di risparmio concordati con i crediti internazionali, anche in caso di vittoria della sinistra radicale alle elezioni. E quindi ha ribadito oggi che non c'è nessun cambio di rotta. Però insomma, negli ultimi giorni queste dichiarazioni rilasciate a Der Spiegel hanno pesato e non poco, e oggi c'era un bel po' di timore su quella che sarebbe stata la reazione di mercato dopo le nuove esternazioni sia della Merkel che di Schäuble, il ministro delle finanze. Vittorio D'Aroldo del Sole 24 Ore, intanto buonasera. Buonasera a voi. Saluto e ringrazio anche per essere con noi Ferdinando Giuliano da Londra per il Financial Times, collega di origini italiane ma oggi a capo del desk che guarda con grande attenzione alla macroeconomia e le politiche monetarie internazionali. Buonasera Ferdinando. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, cominciamo subito con le novità politiche che arrivano dalla Grecia, perché così oggi, scherzando un pochino anche con altri colleghi, ci siamo azzardati a prevedere. Vedremo queste montagne russe almeno fino al 26 gennaio, fino a quando non avremo il risultato elettorale greco. È così, Vittorio? Cosa ne pensi? Quanto hanno pesato queste dichiarazioni tedesche? Sì, esattamente, perché al primo momento, quando si è visto che il terzo tentativo per eleggere il presidente della Repubblica era andato appunto fallito e quindi si andava al voto, i mercati hanno subito un primo scossone, soprattutto ad Atene, ma a perdere erano state le aziende che erano in via di privatizzazione e che, nella ipotesi che Syriza sarà appunto il primo partito, avevano subito un forte calo perché avevano in qualche modo dovuto incassare il fatto che la privatizzazione della, per esempio, Enel greca non sarebbe andata in porto. Saltasse. Quindi era abbastanza fisiologico e abbastanza, diciamo così, prevedibile. Infatti poi i mercati si sono comportati in maniera più tranquilla. Perché? Perché Syriza non ha messo sul piatto il fatto di voler uscire, ma ha detto che voleva solo contrattare una minore austerità. Un affatto abbastanza comprensibile, visto che il paese viene da un lungo periodo di sacrifici, crisi, certo. Crisi, errori anche del Fondo Monetario, che ha spinto forse troppo sulla leva fiscale e poco sui tagli alla spesa improduttiva, tanto per restare sì, certo, sul come tema quella di cui abbiamo parlato che riguarda noi, però certo. Però quello che effettivamente comincia a dare così un po' sui nervi ai mercati è quando comincia a esserci una polifonia. Cosa vuol dire? Quando, cioè, i tedeschi cominciano a dire una cosa, che è quella che in qualche modo tutti quanti, da François Hollande, il presidente francese, concordano, cioè lasciamo i greci liberi naturalmente di esprimere il loro governo, ma naturalmente rispettando i patti, e quindi cioè che rimangono nella famiglia europea. Der Spiegel ha cominciato invece a far uscire delle indiscrezioni del tipo opposto, cioè che la Germania sarebbe pronta questa volta a far uscire Atene. Allora, forse fa parte di un gioco negoziale, evidentemente, ma sempre oggi un membro importante della socialdemocrazia in Parlamento, Joachim Poss, ha detto no, se la Grecia dovesse scegliere di non pagare gli interessi o comunque di in qualche modo prendere scelte unilaterali, per la Germania sarebbe un grosso problema. Insomma, cominciano a esserci differenti valutazioni da parte dello stesso governo tedesco, ed è un po' quello che avvenne nel 2010, quando a gennaio, quando si seppe insomma che i conti greci non erano quelli scritti a Bruxelles, ma erano molto più ampi, bastava mettere sul piatto 10-20 miliardi subito di aiuti e la questione sarebbe stata risolta. Invece c'erano due elezioni locali in Germania e la Merkel prese tempo perché temeva di perdere consensi dando subito degli aiuti alla Grecia, e si arrivò a maggio, e però dei 10 o 20 miliardi dell'epoca poi ne servirono 110, che poi diventarono 240. Allora non vorrei che una situazione che è tra le parti tutti abbastanza, diciamo così, volenterosi di trovare una soluzione, sfugga di mano, un po' come quello che sta succedendo con il prezzo del petrolio, dove tutti volevano in qualche modo giocare una parte, i sauditi per mettere fuori gioco lo shale gas. E mi sembra che poi stia veramente il rischio quello di far uscire tutti dai binari. Esatto, no? Tra l'altro oggi ho notato in qualche blog che stava ricircolando un po' la medesima considerazione che circolava qualche anno fa, quando venne fatta la prima ristrutturazione del debito greco, quello verso creditori privati. e cioè la Grecia vale appena il 2% del PIL europeo. Quanto volete che possa essere pericolosa una sua eventuale uscita dall'unione monetaria? Qualcuno dice: secondo noi c'è dell'altro dietro anche alla confusione che si è generata oggi sui mercati. Sei di questa stessa idea, Vittorio? Sì. Cosa può esserci? Allora, assolutamente, guarda, è verissimo, la Grecia vale il 2%, cioè veramente poco. Ma che cosa succede se io, governo greco, ti dico non pago ad esempio gli interessi, che è il minimo, nel senso che non ti pago, ti prometto di pagarti comunque il capitale, ma ad esempio chiedo una moratoria, una dilazione dei pagamenti degli interessi. Cioè mette in discussione il meccanismo che nell'eurozona i debiti si pagano, soprattutto quelli sovrani, perché di quello stiamo parlando. Ma se tu sei la Banca Centrale Europea e stai proponendo di acquistare titoli di Stato non condizionati, quindi titoli di Stato di tutti i paesi dell'eurozona per in qualche modo ridurre i rendimenti e aumentare anche un po' l'inflazione, perché abbiamo visto il dato tedesco di oggi di -0,1, sì, vuol dire che ormai l'eurozona sta flirtando con la deflazione, e chi ha debiti e ha una situazione di deflazione rende più complicato pagare il debito, perché il tuo debito non si inflaziona, anzi aumenta. Allora in quella situazione un paese piccolo ma che ti mette in discussione il pagamento del debito dà in qualche modo una mano ai falchi, a Weidmann, tanto per dargli un nome, che dice: vedi Draghi, se tu acquisti i titoli dei paesi a rischio periferici eurozona, rischiamo che poi il quantitative easing vada a essere messo in carico ai paesi austeri, eccetera. Quindi il vero problema è che la piccola Grecia mette sempre in discussione un principio più vasto di quello che c'è dietro. No, tra l'altro stavo pensando che questa prossima riunione della Banca Centrale Europea il 22 gennaio mette in una morsa Mario Draghi in una maniera che ha dell'incredibile. Ferdinando, Giuliano, avesse preso qualche decisione un po' più concreta in riunioni precedenti Draghi, no? Magari in questo momento non si sarebbe trovata in questo ricatto. Non so, che cosa potrebbe fare a questo punto Draghi, a prescindere dal quantitative easing, di cui si sveleranno maggiori dettagli tecnici in occasione di questa riunione del direttivo che avvicina le elezioni greche? Dovrà dire qualcosa di più preciso anche in relazione all'appuntamento politico che poi si svolgerà da lì a pochi giorni? Che ne pensi? Che cosa si dice a Londra di questa ridda di notizie delle ultime ore? Secondo me c'è un doppio rimpianto in qualche maniera. Il primo è sicuramente legato al timing, appunto, delle elezioni in Grecia, che sicuramente mette la Banca Centrale Europea in grande difficoltà, ma il secondo è anche legato proprio al dato dell'inflazione che uscirà questa settimana. Ricordiamoci che la BCE ha ripetuto più volte che l'economia europea non sarebbe entrata in deflazione. Ora, dopo il dato della Germania di oggi, ma anche quello della Spagna, molto molto negativo in termini con i prezzi che sono scesi dell'1,1% sull'anno, molto probabile che già in dicembre i prezzi nell'eurozona siano scesi. Sì, sì. Ora questo non è deflazione alla giapponese, si tratta di un solo numero, però comunque si tratta di un momento abbastanza imbarazzante per i vertici di una BCE che hanno negato per mesi e mesi che l'eurozona sarebbe entrata in un periodo appunto di prezzi che scendono. Ora cosa può fare? Sicuramente la cosa più importante è agire, perché secondo molti operatori di mercato Mario Draghi ha parlato anche troppo, è stato per mesi e mesi bravissimo in qualche maniera a cercare di indebolire l'euro, semplicemente promettendo di tenere i tassi bassi per molto tempo, promettendo di appunto eventualmente acquistare titoli di Stato, però l'azione per ora è stata molto limitata, quindi secondo me tutti gli occhi saranno veramente sulla composizione e la grandezza del quantitative easing, se già verrà lanciato questo 22 di gennaio. E la domanda è poi fino a che punto saranno soltanto appunto titoli di Stato, perché ricordiamoci che acquistare titoli di Stato in questo momento è sicuramente utile per dare uno stimolo monetario, ma non è utile come potrebbe essere, come sarebbe potuto essere diversi anni fa, perché i titoli di Stato europei sono già ai minimi storici, anche quelli di paesi come l'Italia e la Spagna. Bisognerebbe comprare più securities del private, più qualcosa che stanno già provando a fare con gli ABS, con gli altri schemi lanciati, ma sono troppo poche. Quindi secondo me i mercati vedranno prima di tutto la grandezza dello stimolo, quanto sarà, 250 milioni, 500 milioni, un po' pochino. Secondo me molti si aspettano probabilmente molti si aspettano un triliardo, che però potrebbe essere troppo per la Germania. E anche la composizione, cercare di capire, ci saranno, oltre a titoli di Stato, ci sarà qualcos'altro. Insomma, comunque si tratta di un intervento che arriva sicuramente troppo tardi, il target della BCE. No, certo, poi certamente poi questo direttivo era fissato ben prima che andassero a vuoto le tre tornate elettorali per la designazione del presidente greco, per cui magari Draghi neanche immaginava che effettivamente questo appuntamento cadesse proprio in concomitanza con le politiche anticipate greche. Detto questo, che alla luce di uno scenario effettivamente completamente nuovo ed inedito e a quanto pare sempre più serio, in quella giornata immagino ne vedremo delle belle. Abbiamo anche altri commenti da fare, Vittorio, sulla Grecia. Peraltro sì. Leggevo che se oggi si andasse a votare la sinistra radicale prenderebbe il 30,5% dei voti. Siamo sempre più in alto. A metà dicembre aveva il 27% circa dei consensi. Sì, il loro consenso sta aumentando perché naturalmente stanno anche promettendo cose abbastanza populiste che non avranno poi possibilità di fare, come la riassunzione dei dipendenti licenziati, aumentare i salari minimi, e questo vuol dire poi avere dei soldi a disposizione, il che in questo momento la Grecia non ha naturalmente. Però c'è anche un elemento, cioè anche lì si pone un problema reale, cioè il debito greco è al 175% del PIL, 330 miliardi, non è possibile che circa la metà vada ancora per il pagamento appunto di interessi o debito in scadenza. Effettivamente insomma l'Europa dovrebbe trovare una formula, magari anche una formula innovativa che non si dica la parola ristrutturazione, ma ad esempio un congelamento del pagamento degli interessi per un certo periodo, sono 9 miliardi all'anno, anche questo aiuterebbe. Finora tutto questo è rimasto ancora sconosciuto. La Germania non ne vuole neanche sentire parlare, Germania, di coniare termini nuovi naturalmente. La Germania per dovrebbe la Grecia. Sapere che l'IFO, che è quel famoso centro studi di Monaco di Baviera, ha calcolato oggi quanto perderebbero i tedeschi in caso di default della Grecia, e sono 77 miliardi, che anche questo insomma è un elemento che debbono... Però loro lo stesso ci provano, lo stesso a fare dichiarazioni un po' dirompenti, quasi come a dire noi siamo superiori a questo, non ci interessa anche se c'è questa cifra. Ferdinando, Giuliano, un ultimo commento lo lascio fare a te, poi dobbiamo andare alla giornata di borsa raccontando i dettagli della seduta di Piazza Affari per verificare se ci sono delle storie singole. Delle storie ci sono, perché per esempio i titoli petroliferi oggi sono andati a picco un po' perché alcune società hanno espresso dei giudizi negativi. Vedo in questo momento il WTI scendere sotto i $50, abbiamo aggiornato un nuovo minimo d'aprile 2009, un altro trend inarrestabile che porta giù tutti i prezzi, Ferdinando, e anche qua un po' altro tema che, anzi un tema principale appunto a condizionare la prossima della BCE. Assolutamente, però io su questo sarei meno negativo rispetto a tanti. La diminuzione del prezzo del petrolio è sicuramente una buona notizia, soprattutto per l'Europa, per l'Italia, paesi importatori di petrolio. Crea sicuramente dei problemi, qualche mal di testa per i banchieri centrali, però si tratta per ora di shock in qualche maniera temporanei, perché tra un anno l'inflazione, ove diciamo il prezzo del petrolio dovesse restare così com'è, tra un anno se l'effetto sull'inflazione sarà passato. È un problema sicuramente per le società petrolifere, è un problema per paesi produttori di petrolio, ma non è un problema per l'Italia, non è un problema per l'Eurozona. Si tratta forse della buona notizia di oggi. I problemi sono altrove, sono in Grecia, sono in Germania, sono in qualche maniera la volontà politica di agire di Francoforte in questo momento. Grazie a Ferdinando Giuliano dal Financial Times per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. E a Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore, che lasciamo tornare alle vicende greche. Adesso noi siamo in super ritardo con la pubblicità, poi naturalmente andiamo alla giornata di borsa. Eccoci ritrovati in diretta, proseguiamo l'analisi di questa giornata particolarmente concentrata sui temi finanziari. La musica è divertente, quella che Paolo Corleone ci propone, ma in realtà quello che dobbiamo raccontarvi non è affatto divertente, perché Milano si accinge a chiudere la sua seduta con un ribasso di quasi 5 punti percentuali. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Giornata da dimenticare, allora cominciamo un po' con i titoli che hanno fatto peggio in assoluto. Era cominciato iniziata male la giornata per i petroliferi. Eni chiude con un calo del, che chiamiamolo calo, dell'8,36%. Allora, cosa è successo qua? Oltre al prezzo del petrolio, mi pare che ci siano anche delle bocciature per questi titoli. Sì, esatto. Eni ovviamente ha risentito del, in primis del prezzo del petrolio, che proprio adesso stiamo dando la notizia che è scivolato, il WTI è scivolato sotto i $50 al barile, e ovviamente questo penalizza tutto il comparto petrolifero. In più, diciamo, su Eni ha pesato il fatto che proprio oggi gli analisti di Citigroup hanno tagliato la raccomandazione, hanno in particolare consigliato ai propri investitori di vendere le azioni del cane a sei zampe, non solo per l'andamento del prezzo del greggio, ma anche per le rinnovate tensioni in Libia, che hanno provocato un calo significativo dei livelli di produzione. Ricordiamo che Eni è molto presente in Libia, e quindi questo ha fatto sì che si sono scatenate letteralmente le vendite. Ovviamente comunque sono andate male tutte le azioni del settore petrolifero, anche a Piazza Affari, quindi Saipem ha perso il 4,78%, Tenaris, che fa i tubi comunque per il settore petrolifero, ha registrato un ribasso del 5,39%. Male anche le banche, Unicredit, Piazza Cordusio, la peggiore in assoluto, meno 6,62%, Intesa, meno 5,95%, quindi in assoluto male, peggio di tutte sono andate proprio le big. Sì, esatto, questo perché gli investitori si interrogano su cosa possa esserci all'orizzonte in Europa. Innanzitutto ricordiamo che ci saranno le elezioni greche, e quindi è da vedere che cosa poi succederà successivamente, anche in base a chi vincerà. Si parla ovviamente di una possibile ristrutturazione del debito greco nel caso in cui vincesse la sinistra di Tsipras. Sì, ne abbiamo già parlato nel corso di tutta la prima puntata. Quindi tu dici che anche la Grecia ha avuto un impatto sulle banche italiane. Certo, in più va detto che ha destato preoccupazione anche il dato sull'inflazione tedesca, che preannuncia un po' l'inflazione europea. Ricordiamo che in Germania a dicembre i prezzi hanno registrato un rialzo solamente pari allo 0,1% su base annua, e sono rimasti al palo su base mensile. Quindi sì, ne abbiamo già parlato. Allora direi di spiegarci, Eleonora, per quale motivo oggi zitta zitta Monte dei Paschi porta a casa un più 0,23%, stamattina era anche a quasi più 4 addirittura. Sì, Monte Paschi è stata, stranamente, diciamo, perché una delle banche in maggiore difficoltà è chiamata a fare un aumento di capitale per 2 miliardi e mezzo proprio nel corso del 2015, è stata insieme a Banca Carige, che peraltro è andata bene anch'essa oggi, sono stati tra i titoli migliori. Banca Carige addirittura ha chiuso in progresso il 4,11%, questo per motivi speculativi. Per quanto riguarda Banca MPS, più 0,23%, gli investitori hanno iniziato a ragionare sull'aumento di capitale, che probabilmente potrebbe essere fatto prima delle attese. Secondo indiscrezioni di stampa, la BCE potrebbe dare l'ok all'operazione già a fine febbraio, e quindi c'è chi ha iniziato a ipotizzare che forse la banca lanci questa operazione prima delle attese, prima probabilmente del cambio ai vertici. Per quanto riguarda Carige, invece più 4%, perché si immagina che Andrea Bonomi, il patron di Investindustrial, è uscito dalla partita di Club Mediterranee, rientri in gioco in Carige. Indiscrezioni di stampa hanno indicato che potrebbe arrivare ad acquistare fino al 20% del capitale, rilevando anche attorno al 7% da Fondazione Carige, il resto sul mercato, e poi chissà, addirittura pensare a un'aggregazione con BPM. Ovviamente qui ci si spinge molto avanti, BPM, che dove era stata azionista e dove non era riuscito poi a rilevare il controllo e quindi era uscito. Però chissà che cosa succeda, evidentemente il mercato crede che succederà qualcosa. Diciamo che quando Andrea Bonomi si muove lo fa sempre cercando delle buone occasioni di investimento, per cui monitoriamolo, perché è un personaggio molto interessante. Miglior titolo della seduta, Luxottica, più 0,99%, rialzo di quasi un punto. Leggevo oggi in qualche rapporto, Eleonora, che questa società oggi probabilmente ha risentito anche di questo dollaro scoppiettante su tutte le altre divise, ma che ha cancellato un po' tutta quella crisi che era seguita all'uscita di scena di Andrea Guerra dalla guida della società. Esatto, il titolo ha toccato, ha aggiornato nuovi massimi storici, si è spinto a 46 euro è appunto risultato sempre in gran progresso, anzi ha chiuso solo con più 0,99%, ma nel corso della seduta andava assai meglio, e questo proprio come hai detto tu grazie al super dollaro, perché la società, ricordiamo, è molto esposta negli Stati Uniti e quindi è favorita ovviamente da un calo dell'euro rispetto al dollaro. Calo dell'euro rispetto al dollaro che peraltro fino a poco prima della chiusura delle contrattazioni aveva favorito anche World Duty Free, molto esposta anch'essa negli Stati Uniti, poi in verità ha chiuso in calo dell'1,11%. Alcune aziende esportatrici della moda come Salvatore Ferragamo, che per qualche minuto è arrivata anche a vantare un progresso, poi in verità ha chiuso in calo dell'1,57%. STM male, -1,69%, sto dando così un po' il quadro dei titoli che hanno perso meno e che comunque hanno portato a casa ribassi superiori al punto percentuale. Azimut -1,14%, la citata Popolare di Milano -1,75%, Autogrill -1,88%, ma per farci molto male vi do anche quelli che hanno perso molto. UbiBanca -5,83%, Tenaris già citata -5,39%, CNH -5%, Buzzi -5%, Mediaset -4,95%. Su Fiat peraltro ci sarebbero state da raccontare delle cose interessanti, perché non so se hai monitorato oggi, Eleonora, le vendite negli Stati Uniti qua stanno andando a gonfie vele, però chiaramente oggi, e beh, comunque Fiat ha tenuto -2%, tutto sommato non è andata male. Altri casi da raccontare prima dei nostri saluti? Ma altri casi, oggi diciamo che è stato una giornata disastrosa, poi al di là dei singoli così tanto per utilizzare delle metafore sì, si è venduto soprattutto un po' tutto il listino e quindi poi tutti ne pagano le conseguenze. Mi azzarderei a dire domani vedremo un bel rimbalzo, ma non vorrei poi tirarmi addosso tutte le critiche degli ascoltatori. Sì, quando non ci azzecco, chissà cosa porta la Befana, magari un rimbalzino, quello del gatto morto come lo chiama qualche operatore qualche volta. Eleonora, grazie per essere stata con noi, ti auguro una buona serata, buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, ma non abbiamo finito qua, perché per completare il commento di questa giornata sui mercati finanziari internazionali dobbiamo dedicare un approfondimento all'andamento delle valute, con questo euro che è scivolato ai minimi dal 2006 sul dollaro. Commenteremo il tema valutario dopo aver sentito cosa sta accadendo sulle strade italiane. Guardarla da questa parte dell'oceano, abbiamo visto oggi un euro in forte difficoltà. Buone notizie per le aziende che esportano, hanno una moneta più competitiva. Naturalmente siamo adesso a 1,1920, anche se la divisa europea si è portata anche al di sotto di questa soglia sul dollaro. Quest'oggi è arrivata anche a 1,1864, il valore minimo dal marzo 2006. Se la guardiamo dall'altra parte dell'oceano, invece, abbiamo una chiave di lettura diversa, che è quella di un'economia americana che sta riprendendo a marciare a passo deciso, per cui la valuta probabilmente interpreta anche questo movimento, oltre al fatto che preannuncia questo aumento a partire dalla primavera probabilmente dei tassi di interesse ad opera della Federal Reserve. Insomma, chissà se ho detto delle cose giusto, mi sono avventurata su un terreno che in realtà non è che sia proprio congeniale per noi giornalisti. Allora cerchiamo di capire qualcosa in più rispetto a questo movimento sui mercati valutari oggi molto accentuato, con Matteo Paganini, a capo del team di analisi di Forex Capital Markets. Buonasera Paganini. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi voi proprio non vi siete annoiati? No, direi di no. I mercati sono stati molto volatili e devo dire che quello che ha detto in apertura come chiave di lettura al di qua dell'oceano e al di là dell'oceano è una chiave di lettura sostanzialmente corretta. Aggiungerei, per il movimento che abbiamo visto in apertura dei mercati asiatici, che è quello che ha portato l'euro sotto la soglia di quota 1,29, che attualmente i mercati sono ancora privi di liquidità, siamo ancora all'interno di periodi festivi, per cui far muovere il mercato, riuscire a far muovere il mercato come si è mosso oggi, ce la si fa utilizzando meno flussi di investimento, certo, rispetto alle condizioni. Quindi diciamo che abbiamo visto movimenti un po' più amplificati per il fatto che, essendoci qualche sala operativa che magari lavora un po' meno, le festività, minore liquidità in circolazione, forse magari in giornate normali i movimenti sarebbero stati un po' più contenuti? Esattamente, perfetta chiave di lettura. E allora il tema della liquidità, lei lo dice anche nel vostro rapporto quotidiano della vostra società, è quello che ci accompagna in questi giorni e che naturalmente devono essere, è un tema che deve essere tenuto sotto osservazione da parte degli operatori, ma anche da parte degli imprenditori, che poi chiaramente, soprattutto quando vanno sui mercati internazionali, hanno un occhio di riguardo per l'andamento delle divise. 1,19 e 17 il rapporto di cambio in questo momento, ma secondo lei è più debole l'euro o più forte il dollaro? Nel senso, che cos'è che domina in questa relazione? Un euro che ha a che fare con ancora ulteriori iniziative di allentamento monetario da parte della Banca Centrale Europea, o è più il dollaro che spinge perché l'economia americana è più forte, perché i tassi di interesse statunitensi a breve riprenderanno a salire? Allora, il dollaro è forte su tutti i fronti, è riuscito a salire in maniera forte e incontrastata contro tutte le valute principali, mi riferisco al dollaro australiano, al dollaro neozelandese, al franco svizzero e via discorrendo. Ci sono stati dei movimenti di debolezza anche di alcune divise che sono stati più accentuati rispetto agli altri, penso ad esempio all'euro, quindi il fatto che l'euro-dollaro sia sceso così tanto rispetto a un dollaro neozelandese contro dollaro americano, piuttosto che dollaro australiano contro dollaro americano, è sicuramente indice delle aspettative che il mercato ormai è andato a prezzare di una potenziale implementazione del quantitative easing. Ora, dal punto di vista delle tempistiche di interventismo, io rimango ancora ancorato alle idee che avevamo qualche mese fa, quindi io lo stimo tra febbraio ed aprile del 2014, non so se già il 22 di gennaio 2015 magari non torniamo indietro nel 2015, tempo perché... esattamente, scusatemi, sono ancora legato alle vecchie rimembranze. D'altronde voi state sempre lì come le calamite sui vostri terminali, per cui mi rendo conto che qualche volta veramente dovendo seguire anche movimenti come 24 ore su 24, perché non so lei quante ore dorma Paganini, però so che chi segue il Forex ha una vita particolarmente complicata, quindi sì, questo un po' diciamo per giustificarla sì, anche nel refuso. Assolutamente, oltre al fatto dovuto alla speculazione e agli investimenti di lungo periodo, noi copriamo anche i rischi di cambi di aziende, e con la volatilità che abbiamo visto e con la volatilità che ci attendiamo sempre maggiore, abbiamo dei modelli che girano 24 ore al giorno, giusto per cogliere tutte le opportunità che il mercato chiaramente offre. Dal punto di vista dell'analisi, e quindi guardandolo un po' più sul lungo periodo, adesso abbiamo anche questo problema legato alla Grecia, che andrà alle elezioni anticipate. Se dovesse vincere la sinistra radicale. Iniziano ad esserci dei punti di domanda: si esce dall'euro, non si esce dall'euro? Il punto cruciale secondo me sarà il fatto che questo nuovo partito vorrà andare a rinegoziare delle condizioni che sono state stipulate con l'Europa, e questo potrebbe creare un precedente importante, e se questo dovesse accadere l'euro nel breve periodo potrebbe subire dei colpi ulteriori rispetto ai livelli che abbiamo visto adesso. Se dovessero saltare dal punto di vista tecnico per chi opera proprio sui mercati, oppure anche per chi fa delle coperture di rischio di cambio, i livelli che passano intorno a 1,18,25, 1,17 e 75, ci avviamo verso l'area di 1,16, quindi il rafforzamento del dollaro potrebbe essere ulteriore rispetto a quello che Qual è per voi, analisti specializzati sulle valute, lo scenario mi verrebbe da dire o più probabile o comunque quello ideale per i prossimi mesi, insomma, anche perché sul fatto che la sinistra di Tsipras riscuota un discreto consenso, penso che ormai possiamo, a meno che insomma qua non tutti mentano nei sondaggi, come spesso peraltro anche capita, perché non è che sia un'ipotesi peregrina, ma insomma che riscuota un discreto consenso la sinistra radicale ormai ce l'abbiamo per certo. E prima ragionavamo anche sul fatto, Paganini, che proprio tre giorni prima Mario Draghi dovrà fare questo intervento di quantitative easing, non trascurando affatto le elezioni politiche greche che si svolgeranno da lì a tre giorni. Come risponderà questa moneta unica in questo momento, con una anche addirittura ipotesi avanzate in questi giorni dalla Grecia, dalla Germania, che dice ma insomma se uscisse noi non è che ci strappiamo le vesti? Sì, un'ipotesi diciamo che hanno cercato di smentire in maniera abbastanza veemente nelle ultime ore, per cui dal punto di vista ufficiale attualmente io prendo per dato di fatto che la Germania non sia d'accordo con l'uscita della Grecia dall'euro, ma questo conta poco perché si tratta di dichiarazioni. Dal punto di vista di scenari dipenderà tutto da quello che succede con Draghi il 22. Sarò breve: se il 22 Draghi annuncerà quantitative easing, allora a quel punto l'euro, a mio parere, potrebbe in qualche modo continuare queste discese in ottica di più euro messi in circolazione, quindi minor potere d'acquisto della moneta, e iniziare a scendere, che prenderebbe una strada, insomma, che andrebbe di parallela al fatto che la Grecia successivamente, magari il 25, ci dirà che vincerà effettivamente la sinistra, che potrebbe pesare sull'euro. Se Draghi invece non farà nulla questo 22 di gennaio, come tendenzialmente io mi aspetto, allora dipenderà tutto dalle elezioni greche, invece, perché arriveranno prima. Nel momento in cui dovesse vincere la sinistra, credo che possano esserci delle pesantezze sull'euro per queste aspettative che si sono create tra gli operatori di queste richieste di rinegoziazione dei propri debiti, e a quel punto giocherà il ruolo determinante la BCE, ma in un secondo momento, in quanto se cercherà comunque di andare ad implementare il quantitative easing potrebbe in qualche modo mettere un effetto tampone a questo panico, quindi riuscire a stabilizzare un po' l'euro, che potrebbe ancorarsi su valori più bassi rispetto agli attuali e trovare degli equilibri un po' più di medio periodo. Se la Banca Centrale Europea invece si ferma e dice siamo in una situazione da punto di domanda, vogliamo ben capire cosa succede prima di fare qualsiasi cosa, a quel punto gli effetti sull'euro potrebbero essere ben più pesanti. Questa è un po' la mia idea. Stiamo accorti, in sostanza, ci aspettano delle settimane decisamente effervescenti, tanto per utilizzare quantomeno un termine che non deve preoccuparci più di tanto. Intanto lo spread ha ripreso a salire, sul finale siamo a 133 punti base. Avrei voluto chiederle qualcosa anche del rublo, Paganini, non ce la facciamo, ma magari questo argomento lo teniamo in sospeso per un'altra trasmissione. Grazie, buon lavoro e buona serata. Grazie a voi, buona a serata. Presto, noi ci fermiamo, adesso abbiamo il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Ritrovati in diretta, ancora buona serata a tutti, da Deborah Rosciani. Sì, qua la stanchezza comincia a farsi sentire, poi stavo amabilmente chiacchierando a microfoni spenti con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Deborah, buon pomeriggio. Allora, quando ci sei tu si parla di calcio, ma capita raramente a Focus Economia, sei più su questi argomenti su altre trasmissioni. In caso appunto di ospitata Focus Economia, il tema è un po' il fisco. Nel caso di oggi naturalmente parliamo di questa norma che ha fatto tante discutere, naturalmente scatenato le nuove polemiche politiche. Riepilogo un po' la situazione, molto complicata, e quindi magari la mia cronistoria non sarà precisa, però cosa è successo? Che nella vigilia di Natale il Consiglio dei Ministri ha inserito nel provvedimento attuativo della delega fiscale una norma, è l'articolo 19 bis, che prevede l'esclusione della punibilità quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato. Già qua è tutto complesso, stiamo parlando naturalmente di reati di carattere tributario e di tutte le modalità con cui questi vengono puniti. Chiaramente immagino che sia anche un pacchetto di norme piuttosto ampio, no? Noi parliamo qua di un micro dettaglio. Sì, Marco, chiaramente questa clausola di non punibilità di fatto sarebbe applicabile a tutti i reati di carattere tributario, di fatto eliminando la punibilità nel caso in cui l'imponibile dell'evasore sia, diciamo, particolarmente elevato e quindi l'evasione sia inferiore al 3%, mettiamo che l'imponibile. Quindi non varrebbe per me, per te? Molto più difficilmente, oddio, bisognerebbe sempre fare le proporzioni, certo. Però di fatto, facciamo l'esempio per farci capire, se uno ha un imponibile di 100.000 euro e fa delle fatture false per 2.500, finora, perché poi la norma, come siamo sappiamo, al di sotto del 3%, quindi in questo caso c'è questa esclusione di punibilità. Ci sarebbe, cioè non è che una persona la passa liscia e non viene in assoluto punito, ha una sanzione amministrativa, se non ricordo male, e quindi diciamo punizioni di carattere. Gli effetti penali verrebbero meno, ma bisogna capire quali effetti penali, anche perché noi qui stiamo discutendo di un'esclusione di punibilità, ma non di una cancellazione del reato. Anche su questo si è fatto confusione in questi primi giorni. Non è che di fatto il reato di false fatturazioni, quando si è sotto questa soglia, non esiste più. E questo è importante perché quando poi si deve applicare il favor rei, che è quel principio per cui anche se tu hai commesso un reato in un certo momento e la legge più favorevole arriva dopo, ti viene applicata perché i principi tradizionali del diritto penale concedono questo beneficio. Abbiamo sentito poco fa anche nel giornale radio alcuni esponenti noti appunto del Movimento 5 Stelle ribadire la questione che questa era una norma salva Berlusconi, perché avrebbe potuto, se fosse passata, se nessuno se ne fosse accorto appunto, cancellare la condanna dell'ex premier del processo Mediaset, una frode fiscale di 7 milioni di euro e quindi pari a meno del 2% dell'imponibile del noto appunto imprenditore, e quindi ridargli la possibilità di candidarsi in politica annullando tutti gli effetti della legge Severino, no? Che prevede 6 anni di incandidabilità. Anche tu vedevi questa relazione? Ma molto difficilmente. Io credo che si sia fatta una polemica, diciamo, in parte non conoscendo la norma, perché poi è stata, diciamo, a un certo punto ritirata, ma soprattutto non andando bene a studiare tutti gli ingranaggi tra la parte giuridica e quella fiscale. E poi andiamo sulla parte della esecuzione della pena e quindi della possibile riabilitazione. I passaggi sono tanti, certo. Non è che una volta mettiamo entrato in vigore questo decreto, il giorno dopo Berlusconi sarebbe potuto ricandidare. Anche perché lui sta già terminando, no, la sua, c'è questo, di scontare la sua, a metà febbraio, servizi sociali, per cui che cosa anche fosse entrata in vigore. A metà febbraio, di fatto, mettiamo, questa norma non esiste più, a metà febbraio Berlusconi finisce di svolgere la sua attività a Cesano Boscone, dopodiché il giudice, se dell'esecuzione si ritiene che Berlusconi si è comportato bene, che abbia svolto bene il suo lavoro, può di fatto disporre già la cancellazione del reato e della sentenza, quindi far venire meno quell'effetto di incandidabilità che è poi il vero, diciamo, pomo della discordia. Quindi è chiaro che questa norma aveva un intento da parte del governo, perché il premier Renzi poi se ne è presa la piena paternità, che è quella, diciamo, di concentrare l'azione penale sui casi più gravi e non far ingolfare invece, certo, i tribunali un po' sempre quello. Per piccole questioni. Però evidentemente si è creata questa conseguenza, poi è stata usata a carattere penale, perché guarda caso sembrava o sembra ritagliata perfettamente all'ipotesi Mediaset Berlusconi. La norma ad personam, come si dice. Questa sarebbe la maggior norma ad personam, perché è proprio ritagliata, ripeto, su una situazione specifica con la percentuale scritta, avrebbero potuto scrivere 2,40%, esatto, per essere ancora più precisi. Però sai, credo che non fosse così scontata l'applicazione, che giuristi, avvocati si sarebbero accapigliati per anni. Nel frattempo comunque magari l'effetto, diciamo, della incandidabilità sarebbe venuto meno per altre questioni. E quindi dici, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una polemica politica che non fa guardare poi a quelli che sono gli aspetti invece più interessanti che c'erano in questo decreto, se mai sarà ripresentato. Allora, intanto vale la pena ricordare che oggi in Italia meno di 100 persone su 60 milioni appunto di cittadini italiani scontano pene per reati tributari. Semmai questa è la cosa più grave. Negli Stati Uniti basta un'evasione fiscale da $10,000 per far scattare tutta una serie di conseguenze penali, tra cui il carcere. Semmai su questo dobbiamo interrogarci, insomma. Intanto sentiamo cosa ha detto oggi a Simone Spezia, ad Effetto Giorno, il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Io il 24 dicembre in Consiglio dei Ministri non c'ero, posso quindi soltanto dire che nel testo che avevo visionato ancora il 23, che doveva essere trasmesso per il preconsiglio, la norma non c'era, quindi è stata una scelta che si è verificata in quel contesto. Devo anche dire però che è la normalità che in un sede di Consiglio dei Ministri vengano poi ripescate a volte soluzioni tecniche che durante l'iter del dibattito sono state accantonate rispetto alla bozza che viene mandata. Il Consiglio dei Ministri non è solo un luogo dove si ratifica, è un luogo dove si fanno scelte, tra l'altro ben 4 o 5, forse addirittura 5 se non sbaglio, sono state le modifiche in quello specifico decreto. Una ha suscitato comprensibilmente molto, molto clamore. In sé, al di là della questione Berlusconi o non Berlusconi, quella norma avrebbe un senso secondo lei, Zanetti? No, assolutamente, noi la contestiamo come Scelta Civica, siamo stati tra l'altro quelli che indirettamente hanno poi fatto sollevare il caso, proprio perché prima ancora che entrasse in scena il solito fantasma di Berlusconi, al quale spero che questo paese riuscirà prima o poi a liberarsi rispetto proprio a un dibattito che non può continuare a essere su ogni norma a favore o contro, in termini proprio di principio noi non condividevamo quella specifica assunzione. Io voglio dire con chiarezza che stiamo parlando di un decreto estremamente valido che offre soluzioni attese da molto tempo, già dal 2008, agli operatori economici italiani e anche agli investitori esteri rispetto ad esempio al tema della certezza del diritto su una questione complessa come l'elusione, e va a definirla meglio, e non sarà mai troppo tardi quando finalmente lo approviamo. I precedenti governi non sono stati capaci di farlo, noi siamo arrivati invece a un passo. Così come nel decreto ci sono anche altre norme relative a una riforma delle sanzioni tributarie penali previste assolutamente dalla legge delega votata dal Parlamento, che a mio avviso sono estremamente valide. Questa qui nello specifico noi non la condividiamo, ripeto, non per gli effetti che può avere o non avere su Berlusconi, che glielo dico francamente, non ce ne frega veramente nulla. Non la condividiamo perché tanto siamo convinti che sia giusto alzare le soglie di punibilità penali relativamente ai reati meno gravi, quelli dove non c'è il dolo, la frode, altrettanto siamo convinti invece che sulle frodi fiscali vada mantenuta un estremo rigore, quindi una soglia, una franchigia di non punibilità indifferenziata che comprenda al suo interno anche i reati di frode, non ci trova d'accordo. Senta Zanetti, c'è stato un attacco molto duro dell'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco proprio a questo decreto, che dice Visco depenalizza tutto cominciando dall'elusione, in contrasto col fatto che in sede OCSE G20 ci battiamo contro le multinazionali che operano in questo modo. Che cosa risponde? Glielo dico con una battuta, francamente, dopo 18 anni in cui il fisco è stato monopolizzato proprio da Visco e Tremonti, se ci sono due persone di cui confesso non mi interessa molto il parere, sono loro. E però ci sono contestazioni singole, nel senso che dice Visco questo innalzamento per esempio della soglia di punibilità da 50.000 a 150.000 euro vuol dire che l'evasore fino a 300-400.000 euro di materia imponibile non è punibile penalmente. Forse è un po' troppo o no? Ma vede, non è punibile penalmente, ma resta ovviamente aggredibile dal punto di vista delle sanzioni amministrative. Inoltre, quando parliamo di dichiarazione in sede, vediamo di capirci, ed è qui che deve essere fatta la distinzione netta rispetto alle frodi, su cui noi siamo i primi ad avere un approccio talmente legalitario che ha fatto poi scoppiare questo caso. Ma sulla dichiarazione infedele, ricordiamoci che stiamo parlando di situazioni in cui la dichiarazione appunto viene contestata, a volte perché c'è l'omessa dichiarazione di ricavi, altre volte perché semplicemente quello che il contribuente ha dichiarato in un contesto normativo spesso complesso viene considerato non corretto rispetto a circolari, sentenze, poi ci sono contenziosi. Tra l'altro parliamo di contenziosi che in un numero non rilevante di casi sul piano amministrativo vedono aver ragione il contribuente, cioè il concetto è fuori dalla frode, che lo ribadisco deve essere perseguita con la massima determinazione, francamente è meglio concentrare il penale sulle vere grandi evasioni, anche perché altrimenti otteniamo solo, di come si è visto in questi anni, di ingolfare le procure e avere un sistema nel quale un sacco di gente viene segnalata. Si ottiene, poi magari gente che oltretutto in contenzioso in sede amministrativa gli viene data anche ragione, si ottiene un effetto anche di discreditamento del soggetto nei rapporti con la pubblica amministrazione, nella sua capacità operativa e imprenditoriale, ma alla fine non arriva mai nessuna condanna. Allora, meglio concentrarsi su problemi rilevanti, questioni grandi, essere inflessibili sulle frodi e avvicinarci in questo all'Europa, perché forse non si sa, ma nel resto dei paesi europei in linea generale la dichiarazione infedele non è mai penalmente rilevante, piccola né grande. Marco Bellinazzo, allora intanto rapidamente, prima di andare alla prossima pausa, poi ti lasciamo, un tuo commento sulle dichiarazioni di Zanetti. La delega fiscale è molto complessa, qualche incidente di percorso ci sta, anche quello che si è verificato negli ultimi giorni, qualche sospetto lo fa venire, però insomma, a che punto è peraltro tutto l'impianto? Come il Premier aveva detto, insomma, stiamo assistendo all'attuazione dei vari decreti che porteranno per la primavera estate, insomma, ad avere il nuovo fisco italiano, perlomeno cambiato nei suoi aspetti fondamentali. La cosa su cui Zanetti ha insistito e che è alla base poi della legge delega è quella di distinguere nettamente appunto le ipotesi in cui c'è il dolo, cioè la volontà di frodare il fisco, e le grandi o piccole evasioni che sono connesse a queste frodi, che vanno punite, e la sede penale è quella che deve essere semmai rafforzata, se prendendo il modello americano. Viceversa, tutte quelle devi azioni, quelle imperfezioni delle dichiarazioni, quelle dimenticanze che possono a tutti capitare, dovrebbero invece essere eliminate dall'ambito penale. In questo modo si evita di ingolfare le procure, quindi è giusto che su quelle ci sia un approccio meno pesante da parte del fisco. Certo. Mentre tutto il resto, appunto, come diceva Zanetti, va perseguito con grande determinazione. Grazie. Grazie a te. A Marco Bellinazzo, buon anno, il traffico tra poco. Finalmente Paolo, hai messo la colonna sonora che mi piace e che mi pare possa accompagnare in maniera pertinente il prossimo argomento che affronteremo. Allora, parliamo di consumi delle famiglie italiane. Il 2014 è stato l'anno della ripresa che non c'è stata, il 2015 sarà, se non altro, quello della luce in fondo al tunnel. Cosa succederà alle famiglie italiane? Come spenderanno? Quanto e come consumeranno? Oggi è stato diffuso il rapporto Coop Consumi e Distribuzione, elaborato in collaborazione con Ref Ricerche Nielsen. Buonasera ad Albino Russo, responsabile dell'Ufficio Studi Economici dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, che cura il rapporto annuale Consumi e Distribuzioni. Benvenuto e buon anno, dottor Russo. Buon anno e buonasera a tutti. Ci sono tre frasi dal vostro rapporto che mi hanno colpito, quantomeno dalla sintesi. Si parla di un'Italia, almeno quella che può essere tracciata sulla base di come consuma, come un paese vecchio ed immobile. Avete definito buio pesto il periodo delle vendite natalizie nella grande distribuzione. E poi però in tutto questo avete anche detto, a prescindere dal fatto che c'è questa lucina in fondo al tunnel, avete anche detto che nell'alimentare gli italiani hanno modificato i loro comportamenti. In questo clima di austerità hanno maturato un'eccezionale capacità di innovazione che ha portato loro a rivoluzionare, e non in termini negativi, il carrello della spesa. Russo, quali sono i tratti salienti di questo rapporto? Beh, innanzitutto, e speriamo che sia la volta buona, auspichiamo e prevediamo una lieve ripresa dei consumi. Basta poco per far meglio degli ultimi anni, ma il dato dei consumi con un valore che speriamo sia prossimo all'1% dovrebbe essere il dato più alto degli ultimi 5 anni. Perché questa ripresa? Non certamente perché le condizioni dell'economia siano radicalmente cambiate, perché ci vuole poco a risollevarsi da una situazione difficile come quella degli ultimi anni, ma forse soprattutto perché le famiglie cominciano a vedere un po' più di potere d'acquisto grazie ad alcuni interventi della politica fiscale del governo, grazie forse soprattutto all'abbassamento dell'inflazione, si pensi ad esempio alla riduzione del costo del petrolio, che consente di risparmiare su molte spese obbligate delle famiglie, liberando reddito per altri consumi. Certo. Dottor Russo, certo che se noi facciamo un'analisi, come dire, guardando un po' l'ultimo anno, a mesi recenti, se parliamo di settimane, parliamo ovviamente di cifre negative che destano preoccupazione, ma relativamente molto, come dire, invece dirompente l'effetto che si ha quando si guarda a periodi particolarmente lunghi. Mi riferisco per esempio a come è andato il comparto alimentare fra il 2006 e il 2014, che è tornato indietro di 12 punti percentuali. Allora, spiegavo prima ai nostri ascoltatori che quando si tratta di dati riferiti ai consumi, percentuali molto piccole in arretramento significano in realtà mancato fatturato per l'industria enorme, perché tendenzialmente sarebbe preferibile, come per tutti i settori ma particolarmente per questo, che ci fosse sempre il segno più, no, davanti alla voce vendite e consumi, per l'appunto. Questo meno 12% in questo lasso temporale, che cosa vuol dire? Ma vuol dire una rivoluzione per le famiglie che hanno dovuto contrarre i consumi, ma naturalmente anche per le imprese. Vuol dire una pressione promozionale che riguarda ormai un terzo dei prodotti acquistati. Vuol dire una rivoluzione anche nel modello di business di chi a questi consumi si rivolge, ma vuol dire soprattutto della grande capacità degli italiani di ripensare un modello della spesa cercando di difenderne la qualità complessiva, facendo un'operazione di spending review che, se si fosse applicata in altri campi, per esempio nella spesa pubblica, avrebbe probabilmente portato a grandi giovamenti per tutti. Andiamo a due voci che vanno invece particolarmente bene. Il 2015 vedrà un rafforzamento degli stili alimentari emergenti, che peraltro sono tutt'altro che convenienti: le diete bio, il gluten free, certo, e tutto ciò che attiene alle intolleranze alimentari, che faranno davvero la voce grossa in questo anno. E poi c'è tutto il mondo e-commerce, che sostiene anche per esempio l'alimentare russo, nonostante in tanti ancora, soprattutto i piccoli negozi, guardino con il fumo agli occhi questa crescita così importante di questo settore. Eppure direi, per fortuna che c'è, oggi come oggi. L'e-commerce sta entrando prepotentemente nella sua seconda stagione. In una prima fase ha riguardato soprattutto i servizi, pensiamo ai viaggi, agli alberghi, ai servizi finanziari, e poi ha cominciato a riguardare i beni, in una prima fase soprattutto quelli tecnologici. Oggi dilaga in tutto quanto è prodotto fisico, beni durevoli e sempre di più anche beni semidurevoli e non durevoli. È chiaro che l'alimentare rappresenta ancora una quota molto bassa dell'e-commerce complessivo, ma cresce a ritmi superiori al 40% anno su anno. Prima o poi diventerà un problema anche per le aziende del retail fisico come appunto Coop. Russo, vi aspettiamo al varco per il prossimo rapporto, per vedere com'è andata. Intanto grazie. E speriamo sia andata meglio di come ci attendiamo. E speriamo sì anche noi tutti. Grazie ancora ad Albino Russo, grazie. L'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori. Adesso rapidamente l'ultimo tema di oggi. Ma un po' continuiamo a parlare di consumi, di quelli proprio più moderni, modernissimi. Allora, domani a Las Vegas si apre il salone dedicato all'elettronica di consumo, telefonini e computer, il CES. Si chiuderà il 9 gennaio, per noi ci è andato Enrico Pagliarini, che ogni anno si fa questo lungo viaggio, insomma, per andare a vedere tutte le incredibili cose che crea la tecnologia. Quest'anno avremo smartphone pieghevoli, ma soprattutto, Enrico, spiegami cosa sono queste TV a punti quantici, che tu avrai già avuto modo di visionare, immagino. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno per me, buonasera per voi. Esatto, infatti. Sono quasi le 9:30, abbiamo già fatto le prime conferenze stampa, perché qui le conferenze stampa iniziano alle 8 del mattino, quindi bisogna svegliarsi abbastanza presto. Quindi per tutti quelli che con pregiudizio pensano che ti vai a fare una vacanza, in realtà sei in piedi molto presto. No, anzi, alla sera mica bisogna stare al casino a giocare, poi bisogna andare a letto, perché la mattina si sveglia presto. Allora, a proposito di TV e di, come tu hai detto, di smartphone flessibili, sono appena stato alla conferenza stampa di LG, che ha presentato il G Flex, che è la seconda serie di questo smartphone flessibile. Però devo dire che quest'anno, anche se la fiera inizia domani, ci sono già state un sacco di conferenze stampa, quindi di cose che abbiamo già visto, devo dire che c'è poca attenzione sugli smartphone e molta più su tecnologie indossabili, molte sulle automobili connesse, automobili automatiche. Ci sono già un sacco di dimostrazioni qui in fiera. E a proposito di TV, sì, sono stati presentati nuovi televisori che sono una sorta di evoluzione dell'LCD. Questo Quantum Dot praticamente è un'evoluzione dell'LCD, ma c'è tantissima attenzione su OLED e devo dire ancora di più su 4K, anche se il grande problema di cui si parla anche qui alla fiera è che ci sono i televisori 4K, quindi con questa definizione 4 volte superiore all'alta definizione che noi forse conosciamo un po', però non ci sono ancora i contenuti, sono pochissimi i film, i telefilm, i prodotti che vengono distribuiti in 4K. Diciamo che abbiamo delle visioni molto differenti sui problemi della vita, Enrico, però insomma, se tu mi dici che per la tecnologia questi sono problemi in questo momento, noi ne prendiamo atto. Purtroppo devo chiudere perché ti abbiamo proprio tenuto all'ultimo minuto, però so che ci sono per esempio anche delle società che stanno mettendosi in competizione con i Google Glass, e quindi insomma tutto ciò che è l'iGlass moderno, sì. Te ne sei comprati un paio? Questo va nel capitolo del wearable devices, quindi certo. Tutto quello che si può indossare, quindi gli occhiali sicuramente sono un tema, però c'è un sacco di braccialetti, devo dire che c'è anche un sacco di cose che hanno un'utilità dubbia e probabilmente il 90% delle cose che si vedono in queste fiere poi scomparirà. però è interessante perché molti ci provano e ci sono delle idee sicuramente originali, certo, che cominceremo proprio a vedere poi dal vivo da domani. Portaci qualche regalo, Enrico. Intanto buon lavoro, divertiti. Grazie ad Enrico Pagliarini, nostro inviato a Las Vegas per il CES. Grazie a Barbara Bianchi, Leonardo Sinigato, a Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica. Noi torniamo, io torno domani a Cuore Denari. A tutti buona giornata. Radio 24, la passione si sente.